Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino e tanta altra gente stasera, eh? Alla conduzione tecnica Simone. One, one, one. Giovedì. Che giorno è oggi? Cioè, no, è giovedì, aspetta, 27 novembre. Ciao simpatici amici. E questa è Piazza Alta. Sono le 22:02 stasera, iniziamo un attimo dopo. Incredibilmente continuiamo pervicacemente ad essere presenti sulle FM. Mi piace il tuo stupore del fatto che noi siamo qua, continuano a farci trasmettere. Mi stupisco ancora di fronte a un'aurora. Sì, vabbè, non importa. Allora, questa è Radio F, questa è Piazza Alta. Siamo tanti questa sera, non mancate di ascoltarci e ditelo, ditelo anche agli altri. Possiamo andare. Simpatici. Questa, come direbbe Marcy e Ocean Bells, detto bene? Sì. Erano gli Ocean Bells, scusatemi, con Faster Than Sound. D'altra parte, se vuoi fare lo speaker, non voglio fare, me lo fanno fare. Il tuo slang deve essere curato. Questa era la nuova uscita italiana che Simone tutti i giovedì propone. A proposito, Simone, ciao. Ciao a tutti. Evviva, dai. Questo, allora, è un nuovo progetto, caro il mio Marcy, di Alberto Mariotti e Lorenzo Cipriani, a cui mandiamo un saluto. È vero. Da 1976, Radio F. Vabbè, ok. Dall'anno scorso, Piazza Alta. Alta. Ecco, bravo. Iniziamo a dire chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo e che cosa riporteremo. Bene, potete ascoltarci nelle oh, frequenze quanto mi piace. Di dai. 101.2 in FM. Così, dai. In streaming, sì, su www.radiof.it. Sì, ancora? Nel sito www.radiof.it possono anche scaricare la app per Android e per Apple, ma con la quale possono, con le loro cuffiette, nel buio della loro cameretta, i nostri radioascoltatori ascoltare in diretta. O anche, ah no, in diretta, giusto, sull'app, sì. Poi il giorno ma dopo, ma se se la perdono in diretta, che succede? Il giorno dopo, il buon Simone One One One sulla pagina Facebook Piazza Alta posterà il podcast. Io so di persone che mi hanno detto che ascoltano la domenica mattina nel lettone prima di alzarsi per passare una splendida domenica. Cosa fanno? Ascoltano noi. Io altre idee ce l'avrei, però ringraziamo anche per questo. Ma non solo. Non solo. Se vogliono, siccome anche vederci, non abbiamo limiti proprio per farci vedere, per sono esaltare tempi che non, veramente su YouTube c'è un canale. Sì. Un canale, vieni, su cui c'è un canale nel bosco a spezzettoni, come di, questo è un termine proprio tecnico, tecnico che viene da Cinecittà, possono vedere dei frame, dei frammenti di, della puntata. E il canale si chiama Piazzata. Hai avuto paura? È bellissimo, no. Così questo, allora, dà la sensazione della veracità del programma. Questo è per farvi capire quanto siamo multimediali, vero? Ma di cosa parleremo stasera? Caro il mio Marzi, stasera parliamo di una società sportiva che tanto ci ha dato e che mi ha dato anche a te, pensa, e che ancora sta dando e darà, poi narrerò perché, sì, come e pensa che ha fatto, per quando sta facendo tuttora la storia del paese di Foiano. Però è una cosa sicuramente che nessuno dimentica, o che comunque chi non l'ha vissuto sa, è che a cavallo fra gli anni 70 e 80 è stata la società di maggior prestigio. Ma che poi ha dato un lustro, guarda, incredibilmente allo... consentimi, lo voglio dire subito, se i nostri ospiti potranno confermare o smentire, sì, è nata nel 1976. Io sono curioso di capire nel 1976 quante cose sono successe a Foiano. Voglio andare a controllare gli astri, perché Foiano, a Foiano nel 76 la palla volo, Radio F. Radio F. Ma chi abbiamo in studio per parlarne, Marzi? Chi poteva mancare? Allora, chi non facciamo mancare? Solo i nomi, sì, e poi li facciamo salutare. Un buonasera. Infatti, Loreno Vannuccini. Buonasera. Ha detto che non aveva una voce radiofonica. Va bene. Poi abbiamo Luigi Moretti. Salve. Oh, ora il più difficile perché è più lontano. Hop. Bonvino Vincenzo, urla. Buonasera. Si è sentito? Ok. E salutiamo anche, non vuole, ma uguale, Tatiana Bonvino. Poi vuoi dire ciao? Hai visto, ce l'abbiamo fatta. Allora, questi sono i presupposti per iniziare a parlare di una cosa veramente bella e importante. Andiamo col prossimo brano e poi si inizia. Battle Gently, quindi lo avrò meglio sicuramente della citrosodina. Turn Around, anche questo è un disco autoprodotto, caro il mio Marzi, e ci credo. È un gruppo italiano, stavo per dire un complesso, e questo diciamo fa capire la mia età. Un quintetto di Como, e questo appunto è uscito il loro terzo disco, uscito nel maggio scorso. Il disco si chiama Uru, ragazzi. Allora, io non sono pronto per fare quello che dovremmo fare, quindi. Ed è per questo mi organizzo, sicuramente. Perché no, stavamo una cosa nel fuori onda, sì, scoprendo sempre delle cose nuove che ora che uno pensa di essere preparato. In realtà invece non è così. E i nostri ospiti stasera ci aiuteranno anche a fare una precisazione che secondo me è importante. Però una cosa è certa, che questa sera stiamo per parlare di una società che comunque in questo momento è molto importante, perché come vedremo ha molte squadre, non solo la prima squadra ma anche a livello giovanile, e parliamo quindi della Pallavolo Foiano. Attenzione, è una pagliacciata. Foiano Pallavolo, sotto rete da sempre, un'icona dei nostri tempi, un gioco di squadra che si butta su ogni palla, non demorde, si rialza, schiaccia e fa muro contro tutte le avversità. È il volley foianese, un segno che a Foiano da sempre le palle volano, ma soprattutto girano. Marco con Blue Boy. Questo è un cantautore canadese, l'album è uscito il 1 aprile 2014 e questa appena ascoltata appunto era Blue Boy, la bello traccia scherzo, sì. Numero 2 dell'album, cioè? Il 1 aprile ci ha fatto un bello scherzo Mac the Boy. Allora, dobbiamo subito chiarire delle cose, dunque siamo in compagnia di, aspetta che, Loredano Vannuccini, okay. Luigi Moretti, Vincenzo Bonvino e dall'alto della tribuna Tatiana Bonvino, sì, che risalutiamo perché è lì che fa il tifo. Esatto. E siamo qui per parlare della Pallavolo a Foiano, ma molto colpevolmente noi, io soprattutto, ma nemmeno ma anche tanto Marzi, perché si parla di più di tanti anni fa, tanti anni pensavamo fa che fosse la stessa cosa di un'altra cosa, eh? E invece no, perché è un'altra cosa. Questo, Enzo, dimostra che a Foiano la pallavolo come sport ha avuto tanti protagonisti su vari livelli, ma noi stasera parliamo di un, diciamo, di un filone che è forse fondamentale, uno dei più importanti, perché va a coltivare quello che è il reparto giovanile. Ovvio. No, a parte le battute, iniziamo a parlare con Loredano, che è il fondatore anche della società. Ma a questo punto io ti faccio una domanda proprio ad ampio respiro: quando siete nati e come vi chiamavate e dove operavate? Dunque, noi siamo nati nel febbraio del 76, siamo nati alla stazione di Foiano, nati inizialmente quasi per scherzo, per fare tipo torneo dei bar, cioè per puro divertimento. Se non che, come tutte le cose, l'appetito viene mangiando, e l'anno dopo ci siamo iscritti alla FIPAV e lì è partita la nostra quasi quarantennale storia di sport. Ecco, per contestualizzare, perché in quel momento a Foiano c'era un'altra squadra di pallavolo. Certo, c'era l'Avis Foiano, che all'epoca faceva la Serie A. Quindi, esatto, calcava altri, diciamo, altri, sì, palcoscenici. Altri palcoscenici, esatto. Sì. Mentre voi, dove, per esempio, dove giocavate voi? Noi con grandi difficoltà al palazzetto di Foiano, appena costruito. Quando è stato fatto siamo andati anche noi, ritagliandosi qualche spazio che poteva essere di troppo per l'altra società, perché loro facevano la Serie A ma facevano solo quella, e oltre quella facevano un campionato di under 16-18, non mi ricordo, ma solo un giovanile, e quindi avevano anche un po' di tempo libero nell'orari più impensati. Però riuscivamo all'inizio, tanto che noi non avevamo pretese, riuscivamo ad andare a fare la nostra attività, che doveva essere solo uno scherzo, però nel tempo è diventato un'azienda. Infatti, e di questo parleremo. Siamo infatti arrivati a un centinaio di bambini al palazzetto, a 10 campionati. Sì, sì, ma infatti di questo poi ne parliamo. Erano i tempi, che mi hanno detto che oggi non è più così, delle ginocchiere. Eh sì. Ma si usano sempre le ginocchiere oggi? Bisognerebbe sentire che ci dice il libero, anche ma facciamolo parlare. In terra non ci si butta più nessuno, se non Gigi. Quindi. E allora Gigi, che sarebbe Moretti Luigi, ruolo, quindi abbiamo capito, libero. Ok, allora questa domanda serissima di Marcello. Aspetta, prima di tutto, scusa, perché nel tempo le regole sono cambiate. Vabbè, ma il libero, che funzione ha? Allora. Libero, no, velocemente, perché noi siamo veramente di un'altra epoca in cui ancora si giocava in 6, non c'era questo con sta maglina colorata in modo diverso. Ho dei vaghi ricordi che se ci fosse stata la rete nel mezzo, ma non lo so. Pensa un po'. Allora partiamo dal libero, accontentiamolo. Il libero difende, riceve, fa più che altro il ruolo di difesa, di difesa, insomma. Okay. Non vede mai la rete, diciamo. Ecco, ma perché si veste sempre al contrario degli altri? Perché è più bello. Vedi? È un segno distintivo. Il libero è un giocatore che soffre di mania di protagonismo, e perché si vede, si veste in un altro modo. Ma ritornando alle ginocchiere. Le ginocchiere. Ma io personalmente le uso ancora. Vedi? Perché salvaguarda il suo fisico. Però dipende più che altro dalle nazionali. Uno guarda le nazionali e vede che magari qualche giocatore forte non le usa, allora non le usa nemmeno lui. E si rompe il ginocchio. Però aiutano a tuffarsi, perché aiuta a buttarsi, insomma, da un, non so, quel qualcosa in più. Io infatti mi ricordo che giocavo con ginocchiere, gomitiere e anche il casco di bicicletta. Siccome Marzi ha giocato nella vostra si è allenato nella vostra gloriosa società, io ho anche una foto, aveva anche, no, ce l'ha lui veramente, e aveva anche i capelli. Quindi si parla veramente del di un'età arcaica. 85-86. I colori sociali allora era il rosso e il bianco, come credo che sia tuttora, giusto? Sì. Ok. Anche ora. Adesso però, ecco, intanto la società come si chiama? Il nome esatto è Foiano Pallavolo GSD. Il GSD sta per Gruppo Sportivo Dilettantistico, imposto a tutte le società dilettantistiche, perché non è una nostra scelta. Certo. Tutti si chiamano ASDE, GSD. Sì, è vero. Tutte le società, ma non è per scelta nostra, è un'imposizione dei nostri governanti. Ecco. E invece i nomi delle, parliamo, diamo solo un accenno, delle prime squadre, quella maschile e femminile, siccome c'è lo sponsor che è il protagonista, diciamolo, ricordiamolo, la maschile e la femminile è uguale. Ah, okay. Lo sponsor è la Norcineria Toscana, che è una società che dal nome si capisce che produce, sì. Produce carne di suino a tutti i livelli, dai salami alla roba fresca, insomma, questa roba. Quindi, lì. E sponsorizza, e quindi dà il nome a entrambe le squadre. Sì, a entrambe le maschi squadre. E femmine. Va bene, io direi che per il momento, abbiamo inquadrato un po' la situazione. Sì, io vorrò sapere nel prossimo intervento che movimento c'è intorno alla pallavolo a Foiano. Certo. Voglio i numeri. Voglio i numeri. Numeri. Voglio numeri. they all put me down. So I brought with me these here three guitars, yeah, one for the cuts and two for the scars. Well, I'm not the only one who rode into town just to lay my burden down. Well, she's living high up there with the sun, with the fern and eucalyptus, yeah, way up in the canyon. Cheer up, child, but drink that strawberry wine. State of mind where everything's moving, dear. It's like limb to limb, mouth to mouth, and hey, yeah. You gotta love to love. You gotta love to love. You gotta love to love. In the canyon, cheer up, child. Drink that strawberry wine another time. We've arrived in the state of mind where everything is moving, dear. It's like limb to limb, mouth to mouth. Hey, yeah, yeah. You gotta love to love. Wilson, Love to Love. Caro il mio Marzi, le dico a te perché mi guardi sempre con aria un po' così stupita, sì, per sì, non dire stupida. E sono, pensa, abbacinato dal tuo, ma te pensa che questo è uno dei, inflessione inglese, è uno, beh, se lasciamo perdere, è uno dei brani di punta del terzo disco. E che dunque, aspetta, te voglio dire un'altra cosa. Fanfare, uscito nel 2013, che lo ha reso celebre al grande pubblico. Infatti io, ecco, stavo proprio aspettando che tu finissi il tuo intervento per unirmi a questa. Quante e via. Bene, ma torniamo agli, allora, amici della palla. Veniamo ai numeri, ai numeri parlando veri, a, che sono persone, e la pallavolo di Foiano. Sembri Razzi quando lo imita Crozza. I numeri veri che sono persone. Che dici? Che dici? Allora, pallavolo Foiano, i nostri ospiti in studio. Non stiamo a ripetere tutte le volte chi sono, perché ormai avete visto anche la foto su Facebook. Ma Marzi, fai la prima domanda seria della tua vita. Loredano, abbiamo detto aspetta, anche ecco, bravo. Detto anche Caronte, per chi ce lo volesse. Caronte detto anche Loredano. Vabbè, perché forse è meglio così. Abbiamo la squadra di pallavolo, sia maschile che femminile. Certo. E che movimento c'è? Quante persone, quanti giocatori praticamente avete tesserato? Dunque, noi quest'anno, come del resto negli ultimi anni, abbiamo varie squadre di minorenni. In tutto credo che siamo vicini ai 110 minorenni e un 25 maggiorenni. Per fare, l'anno scorso abbiamo fatto 10 campionati, quest'anno grosso modo puntiamo a fare più o meno gli stessi, con grossissime difficoltà, però per ora si sopravvive. Le difficoltà sono a carattere economico? Difficoltà sono a carattere organizzativo, diciamo. Ultimamente abbiamo un gruppo di persone molto attive dentro la società, fra cui anche alcuni giocatori, tra l'altro anche Gigi Moretti, come i fratelli Dorini, come Brini, come, insomma, ora l'elenco ci vorrebbe troppo, come alcuni genitori che si danno da fare. Fra l'altro quest'anno d'estate abbiamo anche riverniciato tutto il palazzetto, visto che tanto l'ente pubblico non potrebbe, chiaramente, o comunque la risposta è sempre quella: non c'è un soldo. Quindi diciamo, avete fatto questa iniziativa vostra, io l'ho visto, è veramente bello, tra l'altro. Abbiamo rifatto, secondo me, un bel lavoro. Vero. E questo grazie ai giocatori e ad alcuni genitori di figlioli che giocano lì. Quindi la preparazione, Luigi, l'avete fatta? Sì, col pennello. Certo. Quindi c'è un bel movimento, insomma, ci sono, sì, tante persone. L'unica difficoltà è quella a carattere economico e strutturale, perché il nostro impianto, che ormai ha 40 anni, avrebbe bisogno di un intervento importante, e non vedo all'orizzonte questa possibilità. Mm-hmm. Però è anche vero che, continuando così, non credo che si possa avere lunga vita quel palazzetto. Ma noi ci auguriamo che possiamo anche lanciare un messaggio a chi ci ascolta chi ascolta la trasmissione: se avesse un'idea o anche un contributo di qualsiasi tipo, certo, per poter portare avanti Foiano Pallavolo, ha bisogno di voi. Ma non c'è Foiano Pallavolo e anche E tu che sei lì. E io dicevo, scusa, ma detto, e tu che ascolti. Datti da fare. Ve l'avevo detto che non saremmo riusciti a farla proprio seria. Abbiate pazienza, è il nostro DNA. Luigi. Quanti anni hai, Luigi? Ecco, 25. Da quanti anni giochi a pallavolo? Under 13, quindi sarà 12 anni. 12 ecco, anni. E Caronte Loredano era già presidente da almeno 25 anni. Sì, perché no, presidente da sempre, ci diceva fuori onda. È vero. Quando hai deciso di vestire una maglia diversa dagli altri? Guarda, ma belle, ma sei Marcello? Questa cosa del libero che mi dà tutta la sera. Io è un ruolo a cui tendo, no? Quello di essere libero, quindi. Quando l'allenatore ha visto che tanto alto non venivo, quindi aspetta, ha detto: è un po' come il portiere nel sì, calcio. All'inizio dei giovani lì, sì, è come quello scarso, ma importa. No, vabbè, scherzo, ci mancherebbe altro. No, ma a un certo punto, quando vedi che non cresci, la butti sulla simpatia. Qualcosa ti trovano sempre da fare. Però a parte tutto, è un ruolo veramente particolare. Ora, io non sono molto esperto, però guardando la nazionale così, cioè è un ruolo che la soddisfazione di schiacciare non ce l'ha, per esempio, infatti, di fare punto. No, quella no. Infatti, le soddisfazioni di fare punto, zero. Però una difesa, una ricezione perfetta, che magari al pubblico non la vede, non la nota, però personalmente fa umore, insomma. Esatto. Abbiamo capito chi è che ha rimbiancato lui il palazzetto. Perché non aveva da fare punto. E diciamo che, non avendo grosse soddisfazioni, l'hanno mandato in radio. Esatto. No, stiamo scherzando, non possiamo fare altrimenti. E volevo fare una domanda seria anch'io. Hai detto questa mischierata. Ma non è la serata, le domande serie si fanno dal lunedì al mercoledì, dal giovedì in poi non si possono fare. No, vabbè, niente, era sempre sul libero che mi affascinava una cosa. Però, ecco che volevo dire. Tra l'altro, un'altra difficoltà è il dover entrare e uscire spesso, o sbaglio? Sì, quello. Non mi sembra una grossa difficoltà. Ah, per te non è una difficoltà, vedi, visto da fuori, da ignorante come me. Qual è la parte più difficile del tuo ruolo? Ma sai, a parte arrivare in orario. Sai, il libero comanda comunque la difesa, e quindi, cioè, la ricezione è il capitano della ricezione, diciamo, quindi l'impostazione della ricezione dovrebbe stare a lui, quindi diciamo così, se casca la palla è colpa tua. Sì. sommessamente ha detto non sì. Non direttamente. Vedi il grande presidente che dice non sempre, assolutamente. Ma esiste un libro di riserva? Cioè, sì, nelle categorie come le nostre deve essere un giovane. Ah, ok, un fuori, un, come si chiamano? Un under. Ok, quindi. E deve essere presente in panchina. Sì, cioè, quindi, può esserci o non esserci. Ah, comunque. Ok, se c'è comunque se c'è, è un under. Deve essere un under. Ho capito. Invece in Serie A penso che non ci siano limiti. Non ci sia limiti senza problemi di età. Bene, io direi che abbiamo soddisfatto un po' di curiosità, soprattutto di Marzi sul ruolo del libero. Poi io ora nel prossimo intervento voglio sapere come va il campionato. Sì, ma tu cioè che fai? No, la presentazione degli interventi successivi. Sì, perché... Ma da quando? Da stasera. No. Dal 1976. Vile never run away. Ero prontissimo. Rottweiler. Questo è il Walking on Pretty Days, il disco. E all'anagrafe Kurt Samuel Vile. Sto leggendo a caso completamente. No, ma nessuno aveva. È un cantante e musicista di Filadelfia. Vi basti questo? Ci sarebbe da, ci sarebbe da raccontare tante cose. Ma siamo qui a Piazza Alta. Stasera Piazzalta. Parliamo della pallavolo di Ma prima, Marzi, concedimi di ricordare agli amici come possono ascoltarci. Domani posteremo il nostro podcast, certo, sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta. Fra qualche giorno vedranno le immagini che sta facendo il nostro filmmaker Paolo, che salutiamo. Ciao, ciao Paolo. E appunto sul canale YouTube di Piazza Alta. Però abbiamo anche sulla pagina YouTube degli appuntamenti imprescindibili di cui non riesco mai a ricordare i nomi, però non importa. Un lunedì da Leone, una serata da Leone. In cui Simone pensa a postare dei film veramente belli, ma non è che non mi ricordo perché non mi piacciono, è proprio l'Alzheimer, cioè voglio tranquillizzare, a me piace quello che fai Simone, è che non mi ricordo, solo che rimane lì. E certo, poi gli appuntamenti del weekend verso il venerdì, dico bene? Sabato mattina. Allora basta, vado via. Non ho cercato niente. Scusate, prego Marzi. Allora, rientriamo un attimo con serietà a parlare dell'argomento di stasera con i nostri ospiti, la pallavola a Foiano. Sì. Abbiamo detto che è un settore che ha una storia, è uno sport che a Foiano ha una storia molto importante, perché ha sfornato dei campioni a livello internazionale, ma sì, se il buongiorno si vede dal mattino è in chi si diciamo che organizza, chi cura il settore giovanile, che si formano, si mettono le basi per avere poi dei campioni quando... E via, e via. A questo proposito... No, volevo fare una prima domanda. A che età si inizia a giocare a pallavolo? Quando vuoi. Ma diciamo, però il minimo per dire... Per esempio, la squadra più giovane... Prima inizi è meglio, La squadra più giovane che avete, che quanti sarebbe anni hanno? Under 12, quindi 11-10 anni. Ok. Però se inizi anche a 7 va bene, uguale. Sì, insomma, sia maschile che femminile, sia maschile che femminile. Quanti sono gli allenatori che avete in società? Al momento ne abbiamo 5. 5 che fanno quindi magari più squadre? Sì, Oh, però noi abbiamo introdotto questa cosa perché una cosa che dà veramente lustro alla vostra società è che ogni tanto sfornate qualche campione, qualche campione vero e proprio. Sì. No, non fare il modesto, statisticamente è provato, insomma, a livello mondiale è provata questa cosa. È inutile, no, anzi, lo ricordiamo: Alessandro Fei, campione del mondo, vice campione olimpico e poi non so quanti altri titoli ha. È nato sportivamente a Foiano, per poi volare verso i Liga. Tra l'altro, so che, ma questa è leggenda metropolitana, che qualcuno voleva tarpargli le ali. Lasciamo perdere. Questo non è argomento di e per della fortuna serata. Non, per i fortuna familiari non l'ha ascoltato. Esatto. Okay. Che è presente, non faremo una puntata a parte. Ecco, però sono anche tanti altri che sono arrivati ai massimi livelli. Non certo a livello di Alessandro. Alessandro, dici, lasciamolo stare lui, tanto tutti si sa chi è. Quindi. Beh, a livello mondiale si sa chi è Alessandro, quindi insomma. Secondo me per anni uno dei meglio giocatori del mondo, senza dubbio. Anche se fa uno sport che rispetto al calcio non prendono niente, ma insomma. Beh, però le sue soddisfazioni se le è tolte, sì. Comunque sì, a quei livelli comunque certo, guadagna lo stesso. Certo, però, certo. Da non confondersi con i giocatori di calcio. Assolutamente d'accordo. Anche perché uno come lui, che per anni è stato uno dei meglio giocatori del mondo, credo che paragonato nel calcio potrebbe essere stato Maradona, Messi, sta roba qui. Insomma. Sì, sì, è vero. Quindi, siamo d'accordo. Ecco, lasciamo perdere. Oltre lui, noi abbiamo avuto la fortuna, diciamo così, di mandare in Serie A altra gente di Foiano, e Vanni Alessio, e Costanzo Maurizio, e lo Zampetti Enrico. E l'ultimo acquisto, Gradi Cesare, che attualmente comunque gioca in B1, credo in Brianza quest'anno, a fare del genere. Ah, okay. È un ragazzo di Sinalunga, raccattato dal nostro allenatore, ecco, al volo Giuliano Lisi, ecco, infatti... che credo che sia per le nostre categorie di gran lunga con una marcia in più di tutti. E anche lui è riuscito nell'intento di mandare anche lui in Serie A. Noi ne abbiamo mandati 5 in Serie A. Credo che tutta la provincia di Arezzo non è stata capace di fare altrettanto. Beh, immagino, ma forse non ma solo tutta la provincia assommata non ha fatto altrettanto. Sì, appunto, ma penso che anche tante altre province, insomma, non riescono. Come te lo spieghi? A parte il fatto, appunto, mi dicevi che questo Lisi, questo allenatore è veramente un fuoriclasse, evidentemente. Però quale altro motivo puoi... Cioè, cosa pensi te di questo successo? Arezzo ci dicono che in Val di Chiana è nell'aria. Io non sono convinto, perché molte società hanno il vizio maledetto di dare la prima squadra a un allenatore bravino, insomma, e i ragazzi farli allenare da chi capita. Foiano ha sempre fatto l'esatto contrario, ha tenuto per 11 anni l'Isi a fare i ragazzi e chi capitava faceva la prima squadra e i risultati sono stati 5 ragazzi in Serie A. Sarà una combinazione, per carità, tutto può essere, però Insomma, i risultati lo dimostrano. I risultati sono questi. Esatto. Questa è una strategia di lungo periodo che chiaramente ha dato i suoi frutti. Come parli bene. Ora per altri 5 minuti starò in silenzio. No, però a parte tutto era una considerazione che a Foiano facciamo sempre, il fatto che pur essendo una realtà piccola e magari anche con meno mezzi di altre società, voglio dire, comunque riesce a sfornare sempre giocatori importanti a livello nazionale, lasciando stare poi Alessandro Fei, che è una questione, cioè è al di là di ogni cosa, quello abbiamo avuto la fortuna di averlo qui nel momento giusto, ecco. E di avere l'allenatore giusto che lo ha valorizzato. Ma secondo me, Enzo, sentendo parlare Loredano, per non dimenticare poi Luigi, insomma, grandissimo, che ancora diciamo è un po' agli albori della sua carriera pallavolistica, quindi e stai qui ancora un po' con noi perché prima di volare via, ecco, dobbiamo almeno finire la trasmissione. Ti dicevo che unire il cervello, l'organizzazione, ma anche alla passione, perché essendo loro dentro da decenni, chiaramente ti muove anche la passione, certo. E questo ti fa dare le preferenze a quello che è importante, cioè. Credo tra l'altro, penso che forse correggimi se sbaglio, soddisfazioni più grandi siano quelle appunto di vedere questi ragazzi arrivare a certi livelli, che magari vincere un campionato oppure no, non lo so, dimmi te, cioè. Dunque, noi evidentemente non facciamo i dirigenti sportivi per interessi personali, anzi quando va bene ci rimettiamo il tempo, il telefono e la benzina quando va bene. Quindi le nostre soddisfazioni sono quando, tipo quest'anno, vedi 48 bambini delle elementari fra Foiano e Pozzo che vengono a Palazzetto. Per noi quella è una soddisfazione, certo. E diciamo che sono 48 bambini meno tolti al viale. Bravo, che forse nessuno ci pensa. No, indipendentemente dal vincere o il perdere. Certo, d'accordo. Bene, siamo andati un po' lunghi, ma la cosa era troppo interessante. Un altro brano che non vedo l'ora di disannunciare con il mio fluente inglese, ma intanto ascoltiamolo. Buon ascolto. Down. couple of talks, and there won't be a party with the weather in front. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of talks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. Deeper down. The Heavener con Fade Out Line. Pensa, caro il mio Marzi, lo dico sempre a te, ma per dirlo a tutti gli amici a casa, che in un solo mese dalla sua pubblicazione ha già ottenuto la certificazione di singolo d'oro per le vendite. Questa mi piace. Guarda, ti confermo la fama di questo pezzo, perché in una mia piccola trasferta a Londra suonavamo soltanto questo. Oh yeah, cioè, negli ambienti in questo si ascolta, yeah, online. Senti, salutiamo un po' di persone che ci stanno ascoltando. Io vorrei salutare Giacomo Bastiani e gli amici che sono lì con lui, se, insomma, intenditori, grandi intenditori. E io gli vorrei rispondere al messaggio che ha mandato, che siete il più bel pubblico che ci abbiamo sia mai avuto. Ma salutiamo anche Edi, Virginia, Marta, Brunero, Antonio, il progetto Ioma, Laura, Clara e via e tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Ma Foiano tutto. Tornando a noi, tra l'altro, la settimana prossima parleremo ancora di sport. Questo è così. Rimaniamo sullo sport. Mi è venuto in mente, chissà. Bene. Anche allora, lui ha voluto dire la sua. Parliamo ancora di pallavolo. Siamo sempre in compagnia di Loredano Vannuccini Caronte. Bravo. In arte. Ecco, Luigi Moretti. Loredano Vannuccini in arte Caronte. Luigi Moretti, il libero, uno dei libri più famosi del 2014 del Foiano. Incredibile. Forse l'unico. No, senza tema di smentita, è il libero più forte che abbiamo ospitato qui quest'anno. È vero. Non lo so. Incredibile. Sì. Ho avuto un dubbio. E senti, poi abbiamo anche Vincenzo Bonvino e Tatiana Bonvino, che abbiamo scoperto. La Tatiana, anche senza tema di smentita, è la ragazza con i capelli più lunghi che abbiamo ospitato. Mai ospitato, esatto. Ma pensa a te, che attento osservatore. Il grande libero anche lei, ha smesso, sì, sì, però. Ma è libero, un po' il destino di tutti. Di tutti i libri, alla fine smette. Il libero che vede come unico alleato la rete, perché cerca l'aiuto, nel senso che lo schiacciatore, quando va a schiacciare, spera. Il libro spera che questa palla vada sulla rete. Esatto. Hai presente quella pubblicità? È questione di fisica. Esatto. Ecco, ora più o meno fai un discorso di quel tipo lì. Ma questo, tutto questo problema. Vorrei sapere quanto è alta la quanto rete? Sono alte le reti nelle varie categorie, maschi, femmine, eccetera. Perché io, quella che vedo io, è altissima per me. Impensabile. Ma te parti svantaggiato. E va bene. Sì, la rete è anche molto alta in base a quanto siamo alti noi. Esatto. Anch'io la vedo parecchio alta. Dunque, nei maschi, l'altezza massima per la, per quelli, per la cosiddetta prima squadra, che poi fa tanto la Serie A che è l'ultima delle categorie, l'altezza è sempre quella, è 2,43 metri. Okay. Non conta la categoria che fai, conta l'età. Esatto. Ma questo sul livello del mare, eh? Poi dopo. Mentre per le donne è 2,24 l'altezza massima. Okay. Poi in base a quanti anni le squadre che under sono, hanno la rete più o meno alta. E quindi l'altezza minima mi sembra 2,05 per under 12. Ah, e che comunque è una bella altezza per under 12. Ma tanto 2,05. Comunque non schiacciano. Quindi, anche diciamo, se era 2,10 era uguale. Era uguale, esatto. Oh, sai che ma se vuoi dire una cosa intelligente, dilla, Marzia. È tre mesi che mi preparo sta domanda. vai. No, volevo sapere da Luigi come andava il campionato. E infatti questo volevo dire. Parliamo da un'ora, ma ancora non cosa, quindi abbiamo avuto la stessa o abbiamo lo stesso testo o abbiamo la stessa scaletta. Ma pensavo fosse un sentimento corrisposto. Prego. Attualmente siamo terzultimi. Su quante squadre? Ma lascia stare. Ah, scusa, no, è un dettaglio che non interessa. No, però prima, su tante. Su tante, bravo. Ma la categoria? Serie C. Serie C, ma vuoi dire Serie C è importante. Sì, sì, sì. E tra l'altro fa anche bene. La vitamina C, quella dai. Ecco, siete terzultimi. Vabbè, ma chi è solo sono momentale. Gli avversari più ostici che avete incontrato finora? Ho visto i risultati, quindi non mentire. Un 3-0 è un avversario ostico. Ma non saprei. E quelli meno ostici. Allora, facciamo così. Personalmente, se hai vinto il derby contro il Monte, e questo basta e avanza. Questo è stato un po' come il Torino nel calcio con la Juventus. Che vince una partita all'anno e sarebbe contento. Il pubblico partecipa. Il pubblico a Fogliano partecipa tantissimo. Al quale mandiamo chiaramente un grande saluto. E un applauso. Penso sia il pubblico più bello che io nei palazzetti ho trovato. Come c'è a Fogliano, non. Questo fare no, non perché sono di Fogliano, ma oggettivamente è questo, veramente sentito. Però questo è importante perché vuol dire che, cioè, il lavoro che state facendo piace, cioè è seguito sì, sicuramente. E coinvolgente. È coinvolgente. A livello femminile invece indubbiamente il pubblico a Fogliano, devo dire che anche come numero credo che sia più numeroso di altri posti, ma probabilmente perché riusciamo a coinvolgere, anche perché gli altri sono disposti a farsi coinvolgere, certo, se no non si farebbe niente. Molti genitori di bambini che giocano, bambini e bambine che giocano, i quali quando arrivi al sabato che gioca la squadra di Serie C vogliono venire al palazzetto, è chiaro vedere. Che il bambino da solo non viene, ce lo porta i genitori, certo. E a volte ce lo porta i genitori, anche i nonni, e qualche sera non ci si entra nemmeno. Questo è veramente molto, molto, molto dipende positivo. Dipende in base a contro chi si gioca, ma quando si gioca Monte, Cortona, Arezzo, c'è il rischio anche di non c'entra dentro. Questo, incredibile, questo è bello veramente. No, tra l'altro penso che se a tutto questo seguimento la pallavolo a Fogliano, aspetta, fammi finire, tanto non era una cosa seria, pensa magari qualche bambino che ha appena iniziato alla foto di Luigi in camera il suo eroe incredibile, e dice vedi se gioca lui io astrofisico nucleare. Luigi, di qualcosa stiamo scherzando, dillo, cioè, anche per chi ci ascolta chiaramente io mi posso permettere perché con Luigi ci conosciamo, ma tra l'altro voglio almeno dire, da 36 minuti 55 tra l'altro vogliamo dire che Marcello ha fatto parte delle squadre giovanili, ma forse come riserva anche in prima squadra. No, io ero adibito al secchio. No, ma non fare il modesto, a pulire la panchina. Che ruolo eri? Ero alzatore. Alzatore, quindi sì. Anche un ruolo importante perché è il regista. Il regista della squadra. Sì, poi dopo sai, l'arte ho fatto altre scelte. No, dopo la moto, la velocità. Il Lisi e ha detto ragazzi, sì. So bravo, ma non esageriamo. No, io potrei fare i nomi degli allenatori che mi hanno fatto desistere da giustamente. Perché il mio problema era tutto nella fase preparatoria, negli allenamenti. Ecco. Troppo duri. Troppo duri. No, per esempio, la prima squadra quante volte alla settimana vi allenate, Luigi? Noi ci alleniamo 3 volte la settimana. Quindi voglio dire, è anche un impegno importante perché sì, sì, a livello di tempo ne porta via parecchio, insomma. E poi io mi ricordo per aver visto e basta, ma sono anche allenamenti abbastanza duri, nel senso. Ma senti, io, se vuoi, spogliare, esplosivi. Facciamo una foto. Esplosivi nel senso. No, senti, a livello fisico, forse qualche anno fa erano più faticosi. Ora sì? Non so se sono direttive da chi possano venire queste direttive. È il presidente che vi vuole bene. No, proprio a livello nazionale, internazionale. Comunque, secondo me si fatica, si suda un po' meno. Ah, sì, eh? Vedi? Si pensa più forse alla tecnica. Meno fatica, insomma, ultimamente. O ma almeno meno io. Ecco, un messaggio positivo anche per chi ci ascolta. Venite a giocare a pallavolo, ecco, che non si fa fatica. Ecco, al posto della ciclette o del tapirulante, la pallavolo. Ecco, invece a livello femminile, la prima squadra che campionato fa? Fa la seconda divisione provinciale, quindi sarebbe la penultima delle categorie. Mm-hmm. In passato ha fatto varie volte la Serie D regionale. Ok. Però il gruppo storico ormai non esiste più. Ha una certa età. No, non ha una certa età, che purtroppo con le donne funziona così, insomma, quando quando cominciano a sposarsi hai perse, non è come i maschi che continuano. Anzi, i maschi non vedono l'ora di uscire di casa. No, scherzo, eh. Le donne sposano, saluto Tatiana, fanno un figliolo e smettono di giocare. Eh beh, certo, funziona così. Comunque facciamo la seconda divisione, poi con le donne sempre facciamo l'under 16, l'under 13, e c'è in programma anche l'under 12, che probabilmente riusciamo a fare. Quindi, 4-5 squadre anche a livello femminile. Sì, sì, poi invece con i maschi facciamo la serie C, facciamo l'under 17, under 15, 14, 13. Ah, ok. Ah, qui c'è un segno. È la prima divisione. È la prima divisione. Vabbè, la prima divisione la facciamo con l'under 17, quindi. Vabbè. Ah, quindi diciamo comunque. Pensa, io la prima divisione non ricordo nemmeno quando l'ho quando l'hai fatta. In prima elementare, quando andavo in seconda. In seconda. In seconda la prima divisione. Scusate, vabbè. Io guardo il tempo e mi accorgo che mettiamo un brano e poi ci salutiamo, Simone? Sì. Bravo. Introducing myself as your hits from space. I am no Skylarker. I'm only known. Conquering ruler. Coming from the north with my face to the south, I'm quite sure I can knock you out. I'm the conqueror anywhere you go. The conqueror, I want you all to know. The conqueror, and I rule also. The conqueror, I don't mess with the east nor the west. I leave the public to suggest. I'm the conqueror anywhere you you ought to know. The conqueror, and I rule also. The conqueror. Put the pot in face now. Favor them old pick up a result. I have the honor to carry the banner. Needless, my friend, if you started to stammer. I'm the conqueror. Anywhere you go, the conqueror, and I rule also. The conqueror, I want you all to know. The conqueror, put down the frown when I'm wearing my crown. Right here on Orange Street, that's where we'll all meet. I'm the conqueror. Anywhere you go, the conqueror, I want you all to know. The conqueror, and I rule also. The conqueror, I want you all to know. The conqueror, yes, you rule also. Derrick Morgan, The Conqueror. Allora, caro Marzi, dal 1976, no, Radio F. Questo è del 1985 e lui pensa che è un cantante musicista giamaicano molto popolare negli anni 60 e 70. Sì, un po' di reggae lo percepito. Ora faccio come fai te. Mi ricordo quando sono stato in Giamaica di aver sentito molti brani di questo cantante. Sì, infatti, Era, andava Bab, per la maggiore. Ero a casa di Bab, parlavamo proprio di questo The Conqueror. Oh vai, ora siamo pari. E che cosa dicevi? Si farà. Giamaica, ma sono dei, sono proprio dei luoghi comuni, dei, sì, sì. Assolutamente. Anche Londra, era sempre la solita Londra. Mica tanto, siamo arrivati alla fine, però quando io arrivo alla fine velocemente vuol dire che mi sono divertito perché abbiamo parlato di cose interessanti. Sì, ci sarebbe tutta una cosa da. Ma perché devi fare così? Nel senso, effettivamente questo velo di tristezza non può cadere sul Piazzalta. No, assolutamente. Perché ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Prima dobbiamo ricordare un appuntamento importante. Luigi, lo vuoi fare tu? Della pallavolo Foiano con cui siamo stati stasera. Allora, il 27 dicembre facciamo la cena, diciamo, degli auguri, insomma, cena cui tutti sono invitati, insomma. Che si svolge a dentro al palazzetto. Io ci sono stato l'anno scorso, si mangia tantissimo e benissimo. Io dopo i primi non riuscivo più a mangiare, da veramente tanta roba, ma buona, buona, buona. Poi è bellissimo l'ambiente perché eravamo tanti dentro questa palestra. Non mancherò e invito tutti a esserci. Eravamo 300 anni. È vero, 300 persone. Poi c'era la tombola. Se non sbaglio, non ho vinto niente, ma questo non è una novità. Io d'altronde non ho mai vinto da nessuna parte perché avrei dovuto vincere lì. Però è stata veramente una serata divertente. Incredibile. Rotto dalla commozione. Veramente, non so. No, semmai rotto dall'appetito in attesa del 27 dicembre. Allora, ringraziamo Loredano Vannuccini, detto Caronte, presidente storico della società Pallavolo Foiano. Luigi Moretti, il libero storico ormai a fine carriera. ti abbiamo preso di mira, per pazienza. E poi Vincenzo Bonvino e Tatiana Bonvino che ci hanno fatto compagnia. E per stasera diamo un appuntamento a giovedì prossimo, che sarebbe il ciao che ti importa. Il 4, ci dice Paolo, il 4 dicembre alle ore 22 presenti, e anche giovedì prossimo parleremo di sport, perché noi siamo un programma sportivo. Che non ci capisce niente di sport, però ne parliamo. Ne parliamo. Gli altri appuntamenti sulle nostre pagine, Facebook e YouTube, domani il podcast, poi il video, vabbè. Okay. Ma lo sapete meglio di noi, ma che ve lo diciamo a fare? È stato bellissimo, un abbraccio, un ringraziamento a voi. Ma da quando glielo diciamo? Dal 1976. Radio F, buon ascolto. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Zino, e alla parte tecnica Simone One. E ai filmati Paolo Aulo.